Vittorio Feltri. Vorrei chiedere al Cavaliere se è sicuro che il dato in Senato sia confortante, perché la cosa mi sta inquietando in queste ore. No, per quanto abbiamo potuto vedere noi, abbiamo in Senato una maggioranza che ci darà la possibilità di operare bene. E, d'altronde ce l'aspettavamo, ma tutti i dati che noi conosciamo anche direttamente ci tranquillizzano al riguardo. Un Senato dove potremo operare per l'approvazione anche in tempi veloci dei provvedimenti che saranno necessari. Paolo Mieli. Presidente, in una chiacchierata riservata che abbiamo avuto qualche mese fa io e lei, commentammo l'atteggiamento che aveva avuto il presidente francese Sarkozy subito dopo la vittoria elettorale, cioè quella di essere inclusivo nei confronti dell'opposizione e quindi qua e là di cercare di attrarre e di mettere nella sua maggioranza in posti di rilievo, non necessariamente di governo, anche uomini che avevano combattuto dall'altra parte, dimostrando appunto che le campagne elettorali sono una cosa e poi l'attività di governo può essere ispirata da uno spirito più ampio di allargamento. E lei così disse che apprezzava quel tipo di politica. Io vorrei sapere se l'apprezza ancora. Sì, io vorrei ricordare che noi questo l'abbiamo già fatto, invitando anche degli esponenti importanti della sinistra, quando fumo al governo, a collaborare con noi e anche nominando esponenti della sinistra in situazioni istituzionali europee a rappresentare non il governo ma l'Italia tutta. Parlo per esempio del presidente Amato. E non abbiamo nessuna difficoltà a farlo. Io lavoro normalmente con persone che non sono obbligate a pensare esattamente come la penso io e quindi là dove ci sono delle capacità e queste capacità possono essere utili al Paese, noi siamo e saremo lieti di poterne usufruire. Tenga presente tuttavia, direttore, che noi non cominciamo da zero come poteva essere nel 2001. Noi cominciamo con una profonda conoscenza della situazione della pubblica amministrazione e dei problemi dello Stato. Io sono ancora convinto oggi che ci sia stata un'interruzione negativa del nostro lavoro con questa sinistra che allora. Non posso negare le cose che penso, io sono assolutamente convinto che le elezioni del 2006 non siano state elezioni regolari e questo è dimostrato anche dal vasto voto che abbiamo questa volta. Abbiamo interrotto un lavoro che continueremo e lo continueremo con la conoscenza che noi abbiamo delle cose che si devono fare, con le soluzioni che abbiamo trovato, con la capacità che abbiamo in noi di realizzarle, soprattutto adesso attraverso una vasta maggioranza parlamentare e attraverso un Parlamento che ci dà i numeri necessari per poter varare in fretta delle leggi, quelle leggi che in passato invece restarono in Parlamento, ricordo tra tutte la legge obiettivo sulle grandi opere, addirittura 18 mesi. Con questo Parlamento io sono convinto che potremo procedere con velocità, ammodernando il Paese, cambiando l'architettura istituzionale per rendere il nostro Paese pari, simile agli altri Paesi europei e per fare tutte quelle riforme che si impongono, che noi conosciamo bene, che siamo determinatissimi a fare.